Spiegami perché hai voluto raccontare Sante Pollastro. Allora, io... Chiaramente ogni volta che c'è qualcuno che parla e da un palco, da una situazione semi-istituzionale, può essere la televisione, il teatro, e poi dall'altra parte c'è un pubblico che ascolta, c'è ovviamente uno scompenso, nel senso che molto spesso chi parla non dice ciò che pensa realmente e gli altri che lo ascoltano non possono replicare. Di qui il, diciamo così, il giudizio sulla violenza, nel senso che quando una persona non ha nessun'altra possibilità di far valere la propria esistenza se non l'atto perentorio, io credo che non sia giusto o ingiusto, perché non mi imbatto in un discorso morale, però sia nell'ordine delle cose, della vita, che faccia valere la propria personalità con l'atto violento, insomma. E stasera questa situazione è abbastanza particolare, nel senso che io dirò tutto ciò che penso e credo che voi dall'altra parte farete in modo, magari intervenendo, di dire ciò che pensate rispetto a quello che dico, quello che ho scritto no, perché non l'avete ancora, credo che non abbiate ancora letto il libro. Io mi sono trovato in una situazione per cui a 12 anni faccio il maestro elementare e io a scuola non ci voglio più stare. Nel senso che vorrei cambiare me ste. Però il problema è che trovi no un altro me ste de fa. E dato che ciò che mi ha sempre salvato la vita non sono stati i rapporti umani, su cui stendo un velo pietoso, non è stato... Ciò che mi ha salvato la vita è stata la scrittura, la letteratura, questa curiosità che ho sempre avuto per il parlato, per la lingua. E allora nel tempo mi sono rifugiato in una lingua che capisco benissimo io, poche altre persone, e l'ho rivoltata come un calzino, ho passato le notti a studiare, a vedere, ho sentito, ho ascoltato, e sono nate le mie primi racconti che erano in dialetto. Il dialetto abbiatense è una variante del dialetto milanese molto simile. Poi a un certo punto ho avuto una illuminazione, ho conosciuto un personaggio, si chiamava Sante Pollastro, morto nell'80, e, a Novi Ligure, e ho raccontato la sua storia. Ho raccontato la sua storia come se dovessi sparare un colpo di pistola. Io non sono un, appunto... sono un pacifista, ma non sono un pacifico, insomma, mettemeli in scena, insomma. Cioè, nel senso che... E allora ho scritto la storia di Sante Pollastro quasi come avessi in mano una pistola. Ed è uscito, secondo me, un buon lavoro. Non mi sono attardato in considerazioni, appunto, morali, perché a me, perché la moralità serve... solo a chi la usa. Io non ho mai usato moralità, non so cosa farmene, ho sempre avuto dei bisogni pressoché insoddisfatti, quindi la moralità non c'entra niente, non c'entra nulla, e ho raccontato la sua vita, ma sì, anche per rendere giustizia, diciamo così, postuma alla memoria di un uomo che comunque è stato come dicevo prima, aderito perfettamente alle cose, aderito perfettamente alla sua vita, al di là di ogni morale, di ogni condizionamento. Ed è nata la storia di Sante Pollastro. Sante Pollastro è nato a Novi Ligure nel 1899, a 6 anni perde il padre, lui va a rubare il carbone in stazione a Novi Ligure e viene arrestato, e poi si innesca chiaramente la valanga, nel senso che nel giro di qualche anno si trova super ricercato, uccide in leali scontri a fuoco e diviene il nemico pubblico numero uno nell'Italia degli anni 20, non solo per la polizia italiana e i carabinieri italiani, ma anche per la Sûreté francese, tant'è che lui opera sia in Lombardia, sia in Piemonte che in Francia, e viene arrestato nel 27 a Parigi dagli uomini del commissario Guillaume, da cui Simenon trarrà la figura di Maigret, giusto appunto per il fatto che Guillaume ha arrestato il Sante Pollastro, che era considerato appunto il bandito più famoso dell'Europa in quegli anni, insomma. Io altre cose, sinceramente, tranne che parlare di me, bisogna leggere il libro. Io faccio letteratura nella speranza un domani di non fare più il maestro, torno a ribadirlo. Fammi parlare, cazzo. Il discorso è che io una volta credevo, è 13 anni che faccio il maestro elementare, una volta credevo che bastasse cambiare i programmi, bastasse cambiare qualcosa. Invece adesso mi sono accorto di una cosa totalmente, secondo me, veramente rivoluzionaria. In quanto rivoluzionaria non ti dà possibilità di resistere al suo impatto violento, insomma. E mi sono accorto che il problema della scuola non sono i programmi che devono cambiare o la partecipazione democratica, ti capisci? Il problema della scuola sono le mura. Il problema della scuola è un problema di biologia dell'ambiente, proprio. Sono quelle mura del cazzo con cui hanno costruito le scuole. E sinceramente io mi ribello all'idea che bambini da 6 anni a 10 anni, e anch'io che ho 40 anni, debba stare 6 ore rinchiuso dentro un'aula. Cioè, quasi come dovessimo scontare una carcerazione preventiva in attesa della definitiva carcerazione che ti darà il mondo del lavoro. Questo è il problema fondamentale della scuola. Cioè, distruggere le scuole così come sono. Cioè, abbattere le scuole. Cercare modelli nuovi di insegnamento, fate le scuole famiglie, fate i centri ricreativi, fate l'agricoltura biologica, fate quel cazzo che volete, ma levatemi sti bambini dentro quelle stanze lì, levate me da quelle stanze lì. Questo è il mio problema fondamentale, te capi? Senti, ma in tutto questo il dialetto, il paese, la gente una volta, questo qui cosa c'entra? C'entra perché io mi ricordo che quando ero bambino, io vengo da una famiglia proletaria, mio padre ha cominciato a lavorare alla Pozzi Ginori di Corsico, che adesso hanno abbattuto, mi ricordo che ha cominciato a lavorare all'età di 14, cioè mi ricordo, lui mi dice che ha cominciato a lavorare alla Pozzi Ginori di Corsico all'età di 14 anni. E commissari Piccinin, io sono del 61, quando io ero piccolino, quindi in pieni anni 60, pieno boom economico, visto che si contrabbanda questo grande sviluppo dell'economia, tutti stavano bene, tutti avevano soldi. Io mi ricordo che abitavamo in due stanze in casa di ringhiera, siamo stati l'ultima generazione, insomma, a stare in casa di ringhiera, perché adesso vai, non ci sta più nessuno, credo. E... oppure quelli che ci stanno perché... perché... sono state ristrutturate. Perché è bello stare in casa di ringhiera. Vabbè. Noi stavamo per necessità, vabbè, ma al di là di questo, che lei è una pirlata, vabbè, lasciamo stare. Allora, il discorso è questo qua. Io mi ricordo che mio padre veniva a casa la notte e portava i sacchi di carbone. E i sacchi di carbone, come lui, li portavano a casa anche gli altri operai e li rubavano alla stazione di San Cristoforo. Cioè, faceva la stessa roba che faceva Sant'Epollastro, con 60 anni di differenza. Cioè, questa cosa qui mi è rimasta impressa, perché mi ricordo quando ero bambino, io mi alzavo la notte perché non vedevo mai mio padre, poi dopo l'ho visto fin troppo e allora... cioè, vabbè, non vedevo mai mio padre, quando veniva mio padre la notte, io mi svegliavo e lui metteva giù questi sacchi di carbone, erano sacchi di carbone enormi, c'erano 100, cioè un quintale di carbone, non so neanche come facevano. Vabbè, comunque era carbone rubato alla stazione di San Cristoforo, perché allora si viveva così, insomma. Questa cosa qui, quando ho conosciuto Sant'Epollastro, mi hanno detto, guarda che lui era uno che rubava i sacchi, l'ho subito ricollegata alla storia di mio padre, e lì mi è venuta la passione di scoprire chi fosse, cosa avesse fatto nella vita. E la situazione che ho trovato nella Novi d'inizio secolo, questa comunità di gente che si ritrovava nelle osterie, insomma, era la stessa che ho vissuto quando ero bambino io. Io abitavo appunto a Abbiategrasso, c'era una narrazione collettiva, roba che al di là che più, nel senso che io vedo anche mio figlio, che adesso ha 9 anni, duro fatica a fargli capire, a proporgli alcune cose, perché bene o male c'è una voce, una e sola, che è quella della televisione, della pubblicità. E quindi voglio dire, è vero, questo è un mondo che non c'è più, vive ancora marginalmente, ma effettivamente non è più perché... perché la società si è completamente nel senso che è vero, è così, perché cioè, l'uomo non è mica mai stato così, insomma, cioè, voglio dire, ci sono state anche epoche in cui l'uomo ha vissuto anche dando un calcio in culo al denaro, però il problema è che oggi tutto si compra e su tutto si vende, e quindi la situazione è questa qui, insomma. Cosa devo dire? Cioè, su no, mi sembra di essere interrogato a scuola. No, non mi spiega la tua nostalgia, però mai parlato del padre, il carbone, la fatica, la miseria. A parte questo racconto collettivo che vabbè può avere il suo fascino. Ma perché eravamo liberi, cazzo? Perché quando sempre un discorso ambientale, per me la libertà non è, come diceva Gaber, partecipazione. Mi dispiace dare questo grande dispiacere agli intellettuali, insomma. Per me la libertà non è partecipazione. Per me la libertà le pude fa quel che t'avere senza che nessuno che ti rompi cuion. Questa è la libertà. Cioè il fatto di andare fuori, prendere la bicicletta e fare 20 km correndo, il fatto di fare la libertà è la grammatica di Pevunch, è la grammatica dei piedi sporchi, è quella la libertà. Quando andare nei fossi, questa è la libertà, nei boschi, a Tesin, con Fioribal, questa chi è la libertà? Io ho provato a fare, quando ero piccolino, avevo 17-18 anni, a fare l'amore davanti a Ticino, se andava a te capì. Questa era la libertà, io ho vissuto bene. Il giorno d'oggi non vivo più bene, perché bene o male vedo che gli spazi di libertà, proprio di libertà fisica, ambientale, si stanno sempre più restringendo. Hai notato anche te quando siamo venuti qua a Milano. Cazzo, sembra il Blade Runner, sembrava che cazzo. Cioè, sì, siamo partiti da Abbiategrasso, 1:15 di viaggio in macchina, e cioè, più ci avvicinavamo a Milano, più lui sprofondava. No, ma ci è capitato di tutto. Diceva, cazzo, ragazzi, Bisogna mettere bombe dappertutto. Ma no, bombe dappertutto. Ma no, ma nel senso, allora, io ho degli amici che stanno a Sesto San Giovanni. Io sono una volta sono andato a trovarli. Io ho detto, adesso io ho capito perché te ti fai, perché te, io ho capito, perché vivi qua, bene o male. Perché voglio dire, cazzo, la bruttezza ti entra dentro, la bruttezza dei luoghi ti entra dentro, cioè, per me è così, insomma. E allora si ricerca proprio la libertà fisica, la libertà panica, cazzo, non so come spiegarlo meglio, cioè la libertà, cioè...